Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops. Ciao a tutti, benvenuti. Noi siamo Belka e Strelka. E questo è il primo episodio di Walk Wop, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti con un bias per la California. Draft dodgers, gun packers, anarchists, these vulgar sounding names, blue dust in the eyes of the jurors, a crowd in the courtroom the same. We do not believe, sir, the torture, beatings and killings and pains will lift man's eyes to a highest of view and break his bilboes and chains. We believe that you must struggle for freedom before your freedom you'll gain. Freedom from fear, sir, and greed, sir, and your freedom to think higher things. Iniziamo in modo molto meta spiegando il titolo della nostra trasmissione. Che cosa vuol dire Walk Wop? Da dove cominciamo? Cominciamo da Wop. Cominciamo da Wop. Cominciamo dal sostantivo. Wop è un sostantivo che indica gli italiani e in particolare gli italoamericani, e in realtà è un insulto che viene usato per denigrare i suddetti. Da dove viene la parola WOP e come nasce? Allora, facciamo il nostro momento di linguistica. Da dove nasce la parola WOP? Ci sono varie teorie, ma quella che io trovo più interessante e che penso sia quella che poi è stata accettata è che venga dalla parola napoletana guappo, che quando poi è passata a essere pronunciata dagli statunitensi e dagli anglofoni, insomma, non la sapevano pronunciare molto bene, si è trasformata con gli anni e con le decadi in WOP, scritto W-O-P. Quindi WOP, o WOP, o WOP. Esatto. Sti WOP, guarda sti WOP. E come diceva il nostro Belka, è uno di questi insulti razziali che vengono utilizzati negli Stati Uniti soprattutto da, diciamo, persone di origine anglofona, anglosassone, per definire tutti quei gruppi che non erano bianchi all'epoca in cui questi insulti razziali sono stati coniati. Gli italiani non erano bianchi fino più o meno agli anni 60, erano considerati nel gruppo delle people of color, e quindi anche noi avevamo una serie di insulti razziali dedicati, di cui questo è quello rimasto più in auge ancora oggi, forse insieme a Guido. Ecco, diciamo che gli italiani non è che proprio avessero questa ottima fama all'inizio del secolo, comunque erano una grossa comunità di immigrati. C'era una piccola differenza tra gli italiani del nord e gli italiani del sud anche a livello legale. Ci sono delle quote di immigrazione in cui queste due origini vengono distinte, quindi diciamo quelli del sud sono un pochino peggio di quelli del nord, e hanno forse anche questo grave peccato originale di avere un po' questa passione per la sindacalizzazione e per la politica, che comunque non ha contribuito i primi anni ad aiutare l'integrazione. Non raccogliamo queste provocazioni noi. Sappiamo che gli italiani non erano visti bene perché rubavano ed erano sporchi. Soprattutto sporchi. E quindi è un insulto che è, come tanti insulti, e magari ne facciamo qualche altro esempio dopo, e viene un po' riappropriato dalla comunità, cioè diventa un modo in cui la gente si chiama tra di sé in maniera, non dico affettuosa, ma comunque in maniera amichevole, un modo per anche segnalare una certa vicinanza, ma se viene usato appunto dai membri di questa comunità, che sono, diciamo, soggetti alla, sono vittime, diciamo, di questo insulto. Sì, in maniera interessante a me è stato detto quando mi sono trasferita negli Stati Uniti. Pensavo che questo non fosse un insulto dedicato agli italiani, ma evidentemente ancora oggi una parte della popolazione di questo paese lo usa liberalmente per definire chiunque sia di origine italiana, anche se poi non ha veramente connessioni con la comunità italoamericana sull'altra costa. Recentemente, come stava dicendo Belka, è stato oggetto di un atto di reclamazione linguistica e quindi la gente della comunità, soprattutto i più giovani, perché c'è da dire che invece le persone anziane diciamo non sono contente di essere chiamate con questo nome. Ancora oggi l'associazione italo-americana statunitense si lamenta quando persone più giovani o accademici o comici lo utilizzano tra di loro in maniera, diciamo, negli spazi pubblici, però è un modo per segnalare appunto di essere cresciuto parte di questa comunità, di rivendicarsene le tradizioni, alcune delle quali, come nominava Belka, sono comunque legate a doppio filo con la storia del sindacalismo e dell'anarchia in questo paese. Ed è insomma diventato un termine che è stato un po' reclamato, come altri che magari avrete sentito anche in Italia, come il termine queer, che oggi viene utilizzato appunto dalla comunità queer, ma che fino agli anni, adesso vorrei dire 70, forse più tardi in realtà, era utilizzato come un insulto. Ancora oggi le persone magari un po' più grandi di età non apprezzano essere chiamate così. Lo stesso si può dire per il termine cicano e cicana, che è un termine che veniva utilizzato per chiamare gli americani di origine messicana, quindi cittadini che però avevano anche loro il peccato originale di venire dall'altra parte del confine, che oggi viene tranquillamente utilizzato da chiunque, al punto tale che nelle università americane ci sono i dipartimenti di Chicano Studies. È come la N-word, forse. È la parola con la N, la parola con la N che non possiamo pronunciare in diretta radio, e quindi dovrete capire dal nostro discorso di cosa stiamo riferendo, però lo saprete bene, è la parola con cui si insultano gli afroamericani e gli americani neri. Una parola che si sente tanto nella musica hip hop, una parola che si sente tanto nei film di Tarantino. È una parola che ha anche lei questa caratteristica di avere, diciamo, un carico di significato così grande che non può essere pronunciata dalle persone che non fanno parte di questa comunità, che è un po' anche WOP così, per cui appunto se usi WOP e non sei italoamericano e ti stai un pochino identificando come un razzista che vuole insultare qualcuno, ma se sei una persona invece vuoi essere politically correct, vuoi essere sicuro di non essere interpretato come un razzista, o appunto come stiamo per dire presto, se vuoi essere considerato woke, non puoi dire WOP, non puoi. Cioè, non puoi riferirti al concetto, ma non si può pronunciare questa parola. E quindi questo è il motivo per cui in questa trasmissione ci sentirete utilizzare il termine WOP, che noi ci rivendichiamo, ma poiché ci viene richiesto di non pronunciare la parola con la N in cortesia e rispetto delle lotte per la giustizia sociale degli afroamericani in questo paese, noi non la pronunceremo mai. I stay woke. One, two, one, two, three, four. Baby sleeping, time to put her down now. I'll be standing round till the sun. Stay. trust me, it's only a test. E quindi diciamo, mi sembra che questo ci porti un pochino su servire su un piatto d'argento il dover spiegare che cosa vuol dire walk, che è la seconda parola, la prima in ordine di, insomma, del titolo di questa trasmissione, ma è un aggettivo, che quindi essendo in inglese l'aggettivo viene prima del sostantivo, giusto? Giusto. Sì. Sì, cosa significa walk? Cosa significa walk? E magari un'altra parola di queste che nei film o forse nelle trasmissioni o nelle, sicuramente nelle canzoni si adesso sente. Sì, secondo me sulle magliette si vede, su Twitter. Comunque, walk è intanto cosa vuol dire, no? Cos'è, un participio, un passato? Sì, è un participio passato e qualcuno di voi che magari conosce molto bene l'inglese si starà dicendo ma non può essere perché manca la N alla fine. E la cosa interessante è che questo è un participio passato che è grammaticale. Aspetta, magari spieghiamo il participio passato di quale verbo, perché magari la gente non lo giusto, sa. Giusto, hai ragione. È il participio passato del verbo svegliarsi. Sveglio. Quindi vuol svegli. Dire sveglio, esatto. Non è sbagliato, ma la cosa interessante è che è una forma grammaticalmente corretta in inglese afroamericano. Quindi questo termine viene utilizzato per la prima volta dagli afroamericani, dai neri di questo paese, già all'epoca della guerra civile, quindi 1860 più o meno. In inglese afroamericano la frase, mi pare, be staying walk significa sono sveglio, viene utilizzato da persone che intendono dire che hanno finalmente aperto gli occhi su quella che è la ramificazione del suprematismo bianco di questo paese, del razzismo di questo paese. Quindi nel 1860 significa, è un grido di rivolta, è un canto di rivolta. Forse è anche un appello, no? Diciamo lo slogan, no? È stay woke, cioè l'appello è a essere coscienti di quali sono le dinamiche sociali che uno vive e quindi in non vivere passivamente tutta una serie di fenomeni, ma anzi attivarsi, essere attivi, essere militanti, partecipare alla lotta di liberazione, no? È una parola, diciamo, non sin dall'inizio, comunque carica sì. Di un significato politico. Politico, sì. E diciamo, è entrata comunque da tanti anni nel lessico comune inglese. Mi sembra che dal 62 lo si trova nei dizionari addirittura. Quindi comunque è stato recepito, se ne recepisce l'uso abbastanza presto. C'è WAP nei dizionari, abbiamo controllato. Ah, non abbiamo controllato. Carissimo. Forse no, non lo so, forse sì, forse no, non lo so. È una buona domanda. Vi faremo sapere nella prossima puntata. Quindi niente, viene utilizzato per dire qualcuno che fondamentalmente è al corrente di una serie di situazioni di disuguaglianza sociale. In questo senso più moderno se ne fa risalire l'uso alla cantante Erika Badu, che non mi ricordo in quali anni del 2010 qualcosa, scrive un tweet, mi pare, in supporto delle Pussy Riot. E che giri la linguistica. Scrive un tweet in supporto delle Pussy Riot dove fondamentalmente commenta sul fatto che loro sono woke. E da lì più o meno deriva l'uso che poi oggi se ne fa sui media, su Twitter, su Facebook, ovunque. Quindi se qualcuno vi dice che siete woke significa che siete al corrente, siete svegli, sapete quello che sta succedendo intorno a voi. Perché ovviamente poi è stato legato molto, diciamo, questo termine all'attivismo sui social media, è diventato uno di questi termini un po' che come il prezzemolo ritrovi ovunque. E questo sì, un po' il secondo aspetto di questa parola che viene usata un po' come forse in italiano diremmo radical chic, no? Sì. Cioè un pochino il voler far vedere di essere al coscienti di una serie di questioni, quindi magari usare delle parole o non usare delle parole, no? Appunto come dicevamo prima, rifiutarsi di dire certe parole, Però non perché da questo poi segua delle azioni o delle pratiche politiche o dei coinvolgimenti o degli impegni, ma soltanto, diciamo, per segnalare, no? Una specie di virtù superiore, no? Questo si dice virtual signaling, no? Di dire io faccio questa cosa solo per farmi vedere agli altri, quindi la faccio su Twitter, dico ah no, non bisogna, no? Faccio magari la critica a qualcuno che ha detto la parola sbagliata, però poi non sto assolutamente preoccuparmi di cambiare le dinamiche sociali di cui si sta parlando, no? E quindi forse è diventato anche un pochino, non dico anche questo un insulto, però può essere usato in una maniera molto, molto critica, come da noi, no? Un pochino i termini, no? Buonista, radical chic, sì. Attivismo da tastiera, no? Ha un po' tutta questa area di connotazioni che secondo me negli ultimi anni stanno diventando abbastanza grosse, per cui diventa un po' difficile forse definirsi da soli woke. Sì. No, forse, io non so non se so. Forse no. Comunque noi non forse ci forse si fa, ma noi non ci chiamiamo woke nella vita. E, no, e come diceva Belka, c'è anche secondo me tutto un sottobosco di critiche nei confronti di questo termine e del concetto dietro questo termine, che mi sembra, dalle cose che leggiamo, dalla gente con cui parliamo, essere molto cioè molto allineato su forse una linea di demarcazione di classe. Forse una parte della comunità nera, della comunità latina, della comunità immigrate, che non sono quelli che hanno poi accesso nelle università o personaggi che hanno appunto la capacità di e la possibilità di cioè portare la loro voce poi al di fuori delle loro comunità, questa accusa a, diciamo, gli strati upper class delle loro stesse minoranze la fanno, di essere woke, li chiamano i woke e woke è l'attivista da tastiera, quindi sì. Mi sembra una buona analisi quella che hai fatto. Grazie, grazie. Quindi con questi complimenti completamente immotivati direi che abbiamo concluso la meta puntata, la puntata pilota. La puntata zero. La puntata zero, anche meno uno, di Wok Wop. È il momento di salutarci. Un abbraccio. Stay woke and stay wop.